Con Backstage Pass siamo entrati negli ultimi 15 minuti a nostra disposizione. Abbiamo ritrovato la formazione dei Rainbow con le note di questa Stone Cold. Tra 13 minuti la voce di Claudia con voi sino alle ore 14. Poi ricordo comunque che questa sera e domani sera di solito vanno in onda le repliche, ma sia lunedì che martedì non ho registrato i nuovi appuntamenti di Hard and Heavy, lo sto facendo oggi, quindi questa sera puntata completamente nuova, e così anche per domani sera, sempre a partire dalle 20 alle ore 21. Dai Rainbow con la loro Stone Cold, un saluto va a Mara da Muggiò, buona giornata anche a te, e entriamo un po' nell'ultima sequenza, nelle ultime canzoni di quest'oggi. Partiamo così allora, con un chitarrista mancino di Seattle. Mama, I'm sure all the hand and I guess around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Yeah, all the hand and I'm calls her mama, I'm sure odd. Oh, oh, oh, candle calls her mama, I'm sure I'd have an answer. Eccoci agli ultimi istanti, il tempo di salutarvi, ringraziarvi come sempre anche per quest'oggi, per questo mercoledì 14 maggio. Arriviamo ormai alle ore 12, al mezzogiorno del cuoco, e spunta lei che a livello di cucina non è messa bene, nel senso che come cuoca è meglio evitarla. Cioè Claudia con voi dalle ore 12 alle ore 14, noi ci ritroveremo domattina sempre a partire dalle ore 9, questa sera come vi dicevo con le nuove puntate di Arden Day dalle ore 20 alle ore 21. Vi ringrazio, buon proseguimento della vostra giornata di lavoro e di studio e a domani. Ciao ciao! Pardon me while